Garibaldi fu ferito ad una gamba. Il Gazzettino del Risorgimento. Storie da una giovane Italia. Per Garibaldi, viva! Di Simone Spezia e Paolo Piacenza. 1867. Il governo Menabrea sfiduciato in Parlamento. Per la prima volta è stato un voto esplicito della Camera dei Deputati a costringere negli ultimi giorni di questo 1867 il governo alle dimissioni. Finora un voto di questo tipo in Italia non si era mai arrivati. Cavour ha sempre rispettato il Parlamento, ma non è mai arrivato a chiedere un voto sull'intero governo. Ha saputo incassare sconfitte, ottenere vittorie e ha sempre dato le dimissioni prima di essere sfiduciato. Ma Cavour sapeva tener testa a re e Parlamento insieme, Menabrea ancora no. E si è fidato in una maggioranza molto debole. Il 22 dicembre 1867 la Camera ha respinto con 201 no, 199 sì, 8 astenuti l'ordine del giorno dell'onorevole Bonfandini che approvava l'operato del governo sulla vicenda Garibaldi. Troppe tensioni sono state ignorate da Menabrea e dai suoi ministri, troppi malumori covavano nell'aula dopo i giorni caldi di Mentana. A essere decisive pare siano state le parole di Agostino De Pretis, una vecchia volpe parlamentare. De Pretis non ha calcato i toni ma ha chiesto a Menabrea di rispettare la Camera. Non c'è governo in Italia per me possibile. Non c'è governo autorevole che possa spiegare un'azione efficace se una seria maggioranza larga non si forma in Parlamento. Bisogna lavorare per ottenere questo intento. Noi sentiamo tutte le difficoltà pratiche che incontreremo per raggiungerlo. Ma è necessario questo lavoro. Bisogna sopportarne la fatica e continuare con coraggio. Ora mi permetta l'onorevole ministro che io gli rammenti perché venne a dirci o con noi o contro di noi. L'Italia non si è fatta in questo modo. L'Italia nei momenti di pericolo ha detto chi vuol combattere venga qualunque sia la sua fede. Così ha fatto sempre. Ma vi è un'altra parte sulla quale è necessario ci si venga a dare qualche lume. È la questione finanziaria. Io vorrei sapere in quali onde navighiamo, poiché noi siamo fieramente inseguiti dal disavanzo. L'onorevole ministro ci dice dignità all'estero, ordine all'interno. Sacre parole, alle quali non ho nulla da dire, ma esse sono un equivoco perché le possiamo dire tutti. E i partiti non si formano sopra le cose che tutti possono dire. Bisogna spiegarsi. Già De Pretis aveva fatto capire che un diverso atteggiamento di Menabrea potrebbe portare a un diverso atteggiamento anche di molti deputati e ora che si va verso un possibile reincarico la trattativa è in fase avanzata. Al centro c'è la gestione della questione romana ma anche, anzi soprattutto, il problema dei conti. Il disavanzo finanziario dello Stato è salito dopo la guerra del 1866 a oltre 700 milioni. Pare che Menabrea pensi a una nuova imposta che colpirebbe soprattutto i ceti popolari. Ma questo, almeno in Parlamento, potrebbe non essere un ostacolo, anche perché il disegno sarebbe sostenuto da diverse banche nazionali ed estere, che hanno ottimi argomenti per convincere deputati e senatori. Paolo Piacenza, Il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24.